K. E dove l'hai collegato giù con il microfono? Guarda, si è commesso, ma l'ho fatto una prolunga e va bene per tutti i baracchini che ho, capito? Va bene per tutti, perché il, lo stilotto suo non l'ho toccato. Mi sono fatto una prolunga e ho infilato i fili dentro lo stilotto suo originale, l'ho infilato così e l'ho fissato con la trovante perché non avevo il maschio che possa collegare quello stilotto lì. Mentre invece nel baracchino quello ce l'avevo lo stilotto. L'ho fatta la prolunga e mi funziona su tutti i baracchini, capito? Ehi, già va bene. È un microfono molto squillante, molto forte. Beh, già l'avevo sentito l'altra notte io, quando lo stavo usando Claudio per una prova che ho fatto, e qualcuno mi ha detto che non andava bene, buh, e gli ho detto, io lo stavo ascoltando, ma tu è, ma perché non va bene, va bene subito, e Claudio mi ha preso in parola, e mi ha dato, e l'ha dato a me, capito già? Buona estate. Oh, Sandro, mi hai sentito? Cioè, a me quando mi provocano non mi tiro indietro, anche se dicono un sacco di baggianate nei miei confronti, ma c'è una paziente tantia prima di arrivare a quello che faccio io. Ciao Sandro, avanti, buonasera. Chiappa, buonasera, circolo operai, ben ascoltati. Ciao Giulio, per Mike. Ciao Sandro, salutoni, ben ascoltato. Ho un microfono uguale a quello che stavi usando ieri tu, che era una meraviglia veramente, perché io l'ascolto, stavo facendo i lavoretti e mi piaceva veramente. Stamattina me l'ha dato Claudio ed è uguale a quello, il Saletta, parlo di Saletta. Caffa, sì. Ho capito, già un buon microfono, vai. Adesso stavo ascoltando un attimino mentre che svolgevo qualche cosa qua, poi Claudio tra letto per Castino, retro dove c'è il campo, diciamo, e per il beat. Va bene, no, c'è un buon microfono, adattabile un po' a tutti, diciamo, si adegua, diciamo, un po' a tutti. Ti posso dire che da una battaglia certi microfoni che costano una cifra, Sì, Sandro, no, ma già l'abbiamo sentito, Sì, no, va bene, sono contento. Va bene così, ok. Avanti Gianni. Allora io lo sentivo anche a coso, a maestrale, un microfono così e andava molto bene. Infatti gli avevo detto, se lo vendi, vendilo a me e mi interessa quel microfono. Mi piaceva. Mentre invece l'altro, quello palmare, è troppo metallico, non mi piace tanto. Infatti quello lì è quello di maestrale, perché la scatola non l'ho mai usato io, quello lì è. Quello è qua. Io mi ricordo che ce l'avevo, quando mi avevo fatto vedere la stazione, ce l'avevo detto, amici, quello lì ti mette di venderlo, te lo compro io, gli ho detto. E invece, diciamo che poi è andata come è andata, purtroppo. Beh, lui ha fatto un blocco di tutto, io l'ho fatto via VHF, microfoni, l'unica radio che ho lasciato indietro era il 440, perché ne avevo due, ce l'ha presa, cosa mi si chiama, Matte, lo si chiama, vabbè, Mario Mance, il resto l'ho preso tutto io, e ti dico che da quando l'ho preso quel microfono l'avrò usato, se no due o tre volte, tanto è vero che non lo conosco. Ho sentito a Giulio che le piaceva, stamattina sono venuto a prendere le misure, ho detto proprio per lui, dirò che a me non mi serve, non me ne faccio niente pure, capito? Come con il TV, è andato Giampaolo e altri microfoni, sono già andato con l'altra gente. Ok, microfono a parte Giulio e fai girare per Santo. Ok, qua. Mi fa piacere sapere queste cose, so che ce l'avrebbe una persona come si deve, dunque non ci sono problemi. E a proposito, sai cosa ti volevo dire? Stamattina ho incontrato, ti ricorderai, Vittorio Luna Rossa, e mi ha detto, dice che un fulmine gli ha tranciato l'antenna diretto ed ha bruciato due baracchini che aveva sempre sotto antenna lui, sicché adesso non ha più niente, li ha regalati, niente, perché ormai erano bruciati, dice te, gli ha donato una persona che mi ha fatto anche il nome, non lo dico in frequenza, e dice riparateli se si possono riparare, perché a me non mi interessano più. Ti ricordi io ho già di Vittorio? Sì, io me lo ricordo, lo sapevo questo particolare, era a Mario Masse, era il figlio di Mario Masse, mi ricordo tutto. Sì, io lo volevo dire, di frequenza il nome di chi, le ha, di chi ce li ha adesso. Va bene, avanti Alessà. No, l'ha detto lui frequenza, l'ha detto lui giù, non c'è problema. Ok, avanti Alessà. Ok, va bene, dai. Ma aggiungo, il tuo nome da me che poto c'hai? No, adesso aspetta che metto gli occhiali, no, non vengo di niente. Allora, uno è un attacco, a cosa corrisponde? Praticamente a 1.5, ecco così, a 1.5, così adesso lo aumentate poi per vedere, per leggere sotto, se no il tazzino, così, il pomellino mi copriva il segno, a 1.5 praticamente. Confermo, la tua radio è molto bella, a me piace così come stai trasmettendo adesso, ottima per la truppa. Bene, bene, bene, bene, bene, non ci sono problemi. Avanti Massimiliano. Positivo il Caparrogero, dai. Buonasera Giulio. Bisogna accontentarci, questo è un trattore vecchio, l'abbiamo rimesso in funzione. E va bene così, dai. Il suo lavoro ancora lo sta facendo, diciamo. Ok, no, è veramente bello, bello, bello. Questo come piace a me, così bella, chiara. Sì, so che hai delle radio che sono molto più potenti, radio, come quella che ha con il dottor Bonduatore, sì, d'accordo, bella lo scherzo, non ci sono dubbi, però tu lo sai benissimo quali sono i miei gusti, non è che io ti voglio criticare, per carità, assolutamente, però voglio dire, io preferisco questa a quelle radio ribombante nella maniera proprio, sembra tipo effetto cattedrale, capito Massimiliano? Senza nessuna offesa, ma preferisco questa a quella, quell'altra è molto più forte, ripeto, non ci sono dubbi, forse va bene per fare 10 senza forza, capito Massimiliano? Allora, questo vabbè, si sa. Allora, mio parere personale, questa radio per fare QSO così va bene, per fare propagazione con radio del genere neanche entrare ti fanno, tu fatti il conto. Comunque la mia passione non è questa qui, ma è quella con l'eco. Quindi giustamente, non so se tu l'hai notato, il periodo della propagazione, io nei canali bassi non ci sto quasi niente, sono sempre sul 45 perché mi piace fare quel tipo di radio lì. Poi per fare QSO con gli amici qua, nel canale 10, nel canale 5, posso farlo anche con questa radio, però mi piace più fare radio con l'eco. È casinista Massimiliano. No, ma c'è da niente, è casinista. A lui piace così e fa così, e chi glielo impedisce, per carità, ma stiamo parlando di gusti, no? Io, ripeto, io parlo per me, per i gusti che io, che sento io, che ho io. Io con questo balacchino ti ascolto molto, ma molto bene adesso come si. Dall'altro modo ti ascolto molto bene ugualmente, ma soprattutto per la potenza, non per la chiarezza, sì, questo che intendevo dire. O Massimiliano, cioè quella là è molto ma molto più corposa, molto più robusta la voce, sicuramente piace anche quella, io non dico di no, per carità, va benissimo anche quella, però a me personalmente mi piace più questa, solo quello intendevo dire, capito? Io non è che ti voglio sminuire la tua radio, per carità, nella maniera più assoluta, capito? Avanti adesso. Spero che voglio chiarire qui che stavo scherzando io, non stavo leggendo scherzando, anche a me piacciono le radio che piace la Massimiliano, quindi ho poco da dire. Ok, ci mettiamo un attimino in linea. Ok, dai, devo avere un po' la batteria a mezzo andata, eh. No, gli interno vanno bene, no, già, non ti preoccupare, dai. Non ti preoccupare, ho capito benissimo. Comunque, diciamo che la mia passione è più l'altro tipo di radio, no? Più da casinista, come dici tu. Mi piace di più di questa radio così, devo essere sincero. Perché poi c'è stato sempre da ridire, come di queste radio con l'eco, che sono rumorose, che danno fastidio. Ci sono state, già tu lo sai benissimo, polemiche, contro polemiche, sempre si parla di queste radio con l'eco, ma io dico una cosa, a chi non piace le radio con l'eco non è obbligatorio stare nel canale e ascoltare, può tranquillamente starsene in un altro canale e fare il QSO così. E devo dire però che io nel canale 45, quando c'è tutto quel casino, mi piace stare in quel casino, devo essere sincero, mi piace più di essere così, fare QSO normale con questa radio soft o professionale o baracchine come le vuoi chiamare. Va bene, ognuno ha i suoi gusti, comunque va bene così. Mike, a Claudio, riprendi e fai girare. Sono state già fatte. hai già provato con il 140, non ti hanno fatto entrare tranquillamente, ma chiuso qualche duro. Ho visto che hai messo 48 e non ce n'era per nessuno, tutti ti hanno chiamato, tutti ti hanno risposto. Con la radio così non ti risponde nessuno. È quel mondo, capito Claudio? Si parla, cioè, è così, da no? Canale 45 è tutto radio con l'eco, lo sai benissimo, meglio di me, visto che ci sei 40 anni in radio. Piano piano ho iniziato tutti a seguire lì nel 45 e in poche parole è un po' attore Birillo, sono attore Birillo, e sono stato io certamente nel 45, a Massimiliano altrettanto, a tanti altri, a fare le patate nel 45 queste cose con l'eco. La colpa non è di, è tutta mia, me la assumo io, è tutta mia la colpa, capito Giulio? Lui ciao intanto, no, non hai nessuna colpa per carità, e perché ti dice delle colpe che tu non hai, guarda che il 45 io mi ricordo, allora ce lo faccio proprio con i quattro, quando esisteva il baracchino con soli 23 canali, quelli quantati, ci compravamo i quattro per andare su 45, sicché questa è una cosa che dura 40 anni e oltre, lui non è quello il problema. Diciamo che magari si era perso nel tempo quel vizio lì di andare sul 45, e poi magari hai ragione tu in questo ultimo periodo che tu sali sempre sul 45, diciamo che sia un po' accollato tutto lì, ma niente di particolare, ma il 45 si usava 40 anni fa alla grande, guarda, perché avevamo i baracchini a 46 canali anche, e chi non ci arrivava a 46 si comprava i quarti, chi ce l'aveva 23 sostituiva e arrivava a 45, non è quello il problema lui, non ti assumere nessuna cosa. Colpa che tu sia una persona come se ne è, colpa non ne devi avere da nessuno. Avanti, Alessandro, lo riprende, Gianni? Sì, allora, in effetti confermo ciò che ha detto Giulio, perché anche quando mettevano portanti, eccetera, eccetera, passavo tutti su 45, me lo ricordo, c'erano l'Aeghe in quinto, allora, e andavamo su 45, capito? E vabbè, comunque diciamo la verità, non è che tu abbi colpa, è che magari sentendo un tipo di apparato ci è venuta la passione anche a noi, perché in effetti è una cosa che ci ha attirato, poi a me l'eco è sempre piaciuto, ho visto che era un bell'eco quello Colt, ha cominciato a piacermi, tanto è vero che il primo apparato che avevo fatto, ti ricordi, era un Intec, te l'avevo dato, però all'inizio non mi era, mi fischiava, mi dava problemi, alla fine avevo venduto quello lì e avevo fatto subito il Midra, no, ne avrò fatto 4-5 io, non lo so. Ok, scusate noi, vi devo lasciare, c'ho delle visite, ciao Gigi, buonasera, dai, buon proseguo di serata a tutti, alle prossime, riprendi Gigi. Ciao Sara, fai buon proseguo con tutto, facciamo girare a Claudio che ancora non sento la sua voce, avanti Claudio per te. Io a volte c'è anche rimanere in silenzio, non ci sono problemi, io non ho le picche e niente da dire, io come sai benissimo, fino al 48 tu me l'hai dato, è rimasto per anni fermo, poi l'ho ritirato fuori giusto così per fare due chiacchiere, adesso no, non mi interessa più. Quei baracchini, come ha visto Giulio, non ce ne sono più e non mi interessano più. Io ho un baracchino colorato 23 canali che si chiama HB23 e sarà l'unico baracchino che rimane qua in stanza a un angolino quando devo fare un QSO e basta. In compenso uso sempre questo e non mi interessa. Poi se non mi fanno entrare nel canale 45 perché non c'ho l'eco, non vivo dal canale 45, vivo di altro. E non farò altro che ascoltare se mi vuoi ascoltare, altrimenti cambiare canale come dice Massimiliano. Tutto qua. A te Giulio. Ciao Sandro, buona serata. Ok. Sì, beh, certo. No, tu hai fatto fuori tutti i baracchini, già l'ho visto stamattina. Hai una bella stazione e sarà ancora più bella poi quando sarà completata con quella alzatina bacchetta che si dovrà fare, che dovrò fare per completarla definitivamente, così sarà veramente una sala radio, una sala grande questa, non ci sono dubbi. Va bene, vai, avanti Massimiliano. Ehi, positivo. Saluto a Sandro, ciao Sandro, buona serata e buona continuazione. Ciao Gigi, anche a te, ben entrato. Ehi, vabbè, dai, non lo politiamo su questo fatto della radio, era giusto. Una mia precisazione personale, io sono comunque nel parere di Gigi, tutto qua. Andrà bene Mela. Gianni, riprendi. Vabbè. Io vedi, un leggero ecco lo uso sempre, perché a me piace, non è che... Ma questo non disturba più di tanto, comunque l'ultima cosa che voglio dire è che i microfoni amplificati se le cuffie disturbano, eppure li accettiamo. Io sono del parere che vivo, lascio vivere tutte le cose. Detto questo, rilancio tutto quanto a chi tocca, là, e avanti. E non so se è Claudio chi tocca, là. Abbiamo discorso. Lorenzo! Buongiorno Andrea, che buonasera mi sembra, non mi ricordo come ti chiami, comunque buonasera anche a te. Vabbè, basta con gli attacchi, siamo stati attaccati un po' tutti e quindi è giusto che si viva in una maniera diversa in questo obbligo che abbiamo, poi ripeto, a me, ognuno può fare quello che vuole, tanto, continuano, hanno sempre detto io ho fatto sempre il padrone, quindi me ne sono uscito al padrone, passato a palla, e quindi ognuno fa quello che le piace, io come vedete entro poco, giusto per fare due chiacchiere quando mi va, quando c'è gente che accetta la mia novazione, quando c'è gente che non l'accetta non faccio altro che abbassare questo volume e se lo fare l'altro, l'altro che appunto mi permette di poter modulare lo stesso, non c'è problema. Allora, buonasera Claudia Sparviero, Gianni Doppierum, Massimiliano Bolborger, Gigi Vulcano, Giulia Rovaro, qua nel canale 5, avanti, buonasera. Papa, saluto ragazzi dalla ruota circolare, volevo un'informazione, Giulio, se te lo ricordi tu, nell'autoclub la sera, quanto vuole la pressione? 1,5 o 3 o 5? Massimo 2 io, per quanto ne so io, massimo 2, grazie a... È così, perlomeno, e questo è un discorso che avevo da poco con un amico idraulico che me l'ha proprio detto, perché c'era uno che stava insistendo, dice no, vuole più alta, ma quella più alta non serve a niente, c'è al massimo 2, 1,5 va bene, grazie. 1,5, ascolta, siccome evidentemente si è abbassata la pressione e si attacca spesso, come apre il rubinetto, fa tu, allora ne la devo svitare, mollare quei bulloni, svuotarla dall'acqua, ritagli la pressione 1,5-2 e riavvitarcela. Ma sicuramente io quando mi ha spuntato a me l'idraulico qua, mi ha abbassato dal sotto, c'è un dado, l'ha mollato e ha fatto schiattare, tutta l'aria ha fatto uscire fuori e poi l'ha chiusa e l'ha fatta salire al 2, ha fatto qui, questa è la massima pressione che tirò, perché non è importante che sia più alta, capito? Grazie. Sì, ma all'interno della boccia c'è l'acqua, è uscita l'acqua, devo fare svuotare tutta l'acqua. Si è rotta. Avvitarla e fargli la pressione. Io non sono del condottiere, però io ti sto riferendo quello che mi ha detto a me l'idraulico, quando me l'ha fatto qua, è lo stesso discorso, siccome è capitata una discussione in bottega l'altra volta, no? E me l'ha fatto apposta, è arrivato Francesco, un mio amico che fa l'idraulico di professione, e gli ho detto, me ne vinca Francesco, lui ci può chiarire le idee, a quanto va la pressione, gli ho detto, un autoclave, fatto 2, anche 1,5 va bene, dice, e non è il caso di farla più alta, grazie, non so cosa dirti. Non mi chiede altro perché io di più non ti posso dire, ti sto riferendo quello che mi ha detto l'amico idraulico, tutto lì. Ehi, no, era per assicurarmi, perché l'avevo fatto da un sacco di anni, capito? Siccome c'è un sacco di anni questa boccia, è logico, adesso la pressione si deve essere abbassata. Cioè ce l'ho un'altra nuova, ma non la voglio sostituire perché è nuova, la mia bagazzomba è pure della Loara. Avanti, chi è che mi ha chiamato? Se dentro la palla c'è acqua, si è bucata la gomma, quindi la devi sostituire. Infatti, se ti parte l'autoclub è perché non c'hai più aria dentro la palla. Ah, così, allora è inutile che io la svitto, la levo, la svuoto, la rigonfio. E allora faccio direttamente, ne svitto quella, cioè avvitto quella nuova, perciò. So che quella lì è già a pressione, la nuova, ce l'ho detto la scatola un sacco di anni, l'avevo presa di scorta, capito? Quello dentro quella sfera di ferro, di lamierino, c'è una buca, si scoppia la camera d'aria, si riempie l'acqua ed è chiaro che l'elettrovalvola dell'autoclave non funziona perché non c'è aria, non entra in pressione. Quella deve gonfiare e aprire. Quindi dal momento in cui tu c'hai acqua dentro con la palla, ci vuole la palla nuova, ci vuole la sfera nuova, tutto qua. E poi, come ti ha detto Giulio, massimo due perché altrimenti si rompe la camera d'aria all'interno, capito? Potrebbe far girare per gli anni. Siccome l'hai zuccata, è zuccata bene, vuol dire che piena leva, e allora te la levo direttamente e piazzo la nuova, e la nuova c'è dentro la scatola, già pressione sarà. Di solito le danno già pressione, comunque controlla col manometro, non deve essere più di due, se una è 8 è anche meglio. Va bene, allora domani me ne la svito e la cambio direttamente. No, perché mi aveva detto un altro che lui l'ha aperta, l'ha svuotata, l'ha gonfiata che funzionende. Ma mi sembra strano che se ne scende la pressione che dice va bene, io vi raggiungo. Un 15 anni buoni c'è sopra, è nuova perché io ce l'ho all'interno del terrazzo il motore dell'autoclave. Scusate un attimino, mi posso entrare? Ma grazie a... Ma tu che sapevi il 15 anni devi controllare mai la pressione, così è. Tu questa qua, il 15 anni, l'hai controllata la pressione? No, mai. Tutti la vado a prendere, solo che adesso ho visto. Si attacca subito, che mi ha preso un letto, sta sempre così. Lo chiudo, lo fa un paio di volte, poi smette. Allora, prima di tutto controllami la pressione, perché dopo un po' d'anni, 3-4 anni, anche a me, la mia dopo 2 anni, ricontrollavo la pressione, se scendeva 1, hai capito? E bisogna controllargli la pressione, che se non puoi andare a 15 anni, così è un invito, in 15 anni si impara, la pressione la vedi, capito grazie? Controlla la pressione, tu se c'è pressione in questa cosa, e se non ce ne porterà a 1,5, 1,8 massimo, non andare oltre 2, capito? Però ricordati, non l'aprire mai senza accertare che l'hai sgonfiata. Chi qualcuno ha fatto un'immagine, ha mollato il bullone, ricordi di essere gonfiata la camera d'aria e l'hai facciato la faccia, ne ha cavato tutte le reti, e questa cosa, che c'ha pressione lo tappo, grazie, attenzione, quando tu il bullone. Già lo so quello, già l'avevo sentito. Ma allora piazzata così, come io c'ho una pompa di quelle di bicicletta che c'è il manometro, la controllo con quello se c'è pressione, se non ce n'è la gonfio, così com'è piazzata. Scusa i pompati a me da Verini, sì. E poi provi a me, scusa un paio di pompati, intanto c'è la pompa della bicicletta che non può passare. E ce la le controlli a vedere. Sicuramente se scaricata l'aria, che tu 15 anni, Claudio, 15 anni la moglie delle carichette, che si bloccheggia una gomma, a terra di tutto, è una camera d'aria come la camera d'aria della macchina, è quella lì, è una moglie ma sempre una camera d'aria, quando hai degli anni lavorando questa cosa, l'aria va a non lo so io, poi si è pure rotta, dopo 15 anni va anche cambiato, comunque controlla la pressione e poi gli cambi l'altra, e l'altra anzi, vai da gomita, fate la gomita e te la fai gonfiare a un sci, un scenti, te la devi montare l'altra, gliela piazzi. No, domani mattina allora faccio un giro, svito il tappino e controllo se c'è pressione, se non c'è pressione gli do un paio di pompate, già pompa quella lì perché è quella che appoggi i piedi in terra, no, e pompi con le due mani, è un'assa, là. Ma ti rimane, sempre in pressione ti rimane, sempre a me in funzione ti rimane. Se io per un bretto vado, si attacca sempre, capito? Prima adesso si attaccava, trattavi leva, dopo di un bel po' si metteva tutto giù e si chiudava giù. Invece adesso lo passo spesso, capito? Subito, tu, fa un casino. È bucata, l'elettrovalvola che interviene perché non c'è aria. Ah così, vabbè io domani provo come detto cosa, se vedo che fa così, nella svito, vado mi controllo quella nuova, cioè ci abito quella nuova. aria, sono due cose, è giusto quello che sta dicendo Claudio, è bucata o non c'è aria? Non c'è aria nella camera d'aria? Le cose sono due, o bucata o non c'è aria nella camera d'aria? Ma lui ha detto che c'è acqua dentro la palla, quindi è bucata, se non acqua non c'è refresco. Ecco che c'è l'acqua dentro la palla, perché entra l'acqua e spinge, Claudio, spinge, è la camera d'aria che spinge l'acqua, capito? Fa impressione, è l'acqua che entra. Entra l'acqua nel coso della boccia, ma c'è la camera d'aria che tiene impressione e la spinge, capito? Quello che usiamo noi non entra acqua, c'è solo aria e basta. Un attimo, ci vediamo. Ehi, positivo, sì, guarda, ti stai confondendo, dentro la camera d'aria acqua non ce ne deve essere. No, dentro la camera d'aria no, fuori della camera d'aria sì, però entra. E quello che ti sta dicendo Claudio, dentro la camera d'aria ci deve essere solo aria e basta. Ma io devo essere sincero, io ho tolto direttamente la boccia e ho messo quei motori senza boccia e sono molto migliori. È molto cosa, quello lo voglio fare io. Allora, io il mio ce l'ho da due cavalli e l'ho pagato a 135 euro. Ti elimini questa boccia, questo giramento di balle, che ogni tanto si buca, la devi gonfiare. Quella c'ha una scheda elettrica dentro, c'ha due pulsantini. Quando vai in tilt, vai lì, schiacci il pulsantino, lo resetti e riparte da solo. Cioè, io ce l'ho quasi 10 anni e ancora per il momento non ho resettato proprio niente. Da come dal come il giorno l'ho piazzato, sta sempre funzionando bene, tutto lì. Già me lo volevo piazzare qualcosa, ma qui va giù di saboccia, non va nulla, ma la voglio spruzzare, capisci, è un peccato. Oh, ce l'ho conservata, la so fatto qua. La compresa di scorta che io pensavo che durava in poco, invece 15 anni buoni mi raggiunge della Loara, capito? E quell'altra è buona lo stesso. Vabbè, io faccio una prova domani così. Si andando, se non anda, ne lavoro e mi pongo vita. Me la pompo prima, al gommista, e invece me la affitto. E infatti, non metterla, se ce l'hai ferma da parecchio le devi dare una pompata, eh. Io comunque so che va a 1,8, non più di 2, ma a 1,8. Vabbè, già, mi sembra che nell'altra boccia, nella scatola, adesso c'è anche il foglietto, perché l'aveva aperta a vedere, questa è bianca, rotonda, quell'altra invece non è rotonda, è lunga, un pochettino lunga, ed è rossa o arancione. L'avevo controllata adesso quando l'avevo presa. Vabbè, io domani così si bombate. Ah, vedi, guardo quel manometro di sabato della bicicletta e poi lo attacco e vedo se fa quel casino, vuol dire che usci. Se invece, vuol dire che vuoi ciambata, se invece non è fatto casino da quella da così. Positivo a Caparrogine, Giulio, riprendi. Ok. E così è, grazie. E dopo c'è il nuovo, già per il lato, questo lo fa lui. Morte ci vuole. Se peccato ci occorre un numero di telefono per il lato, io già ne ho due, almeno due idraulici, uno meglio dell'altro, e se ne posso mandare uno a casa e poi ti arrangi con lui. Se per caso dovesse necessitare una persona qualificata per fare questi lavori. Va bene, avanti. Riprendi Gianni. Ehi, hey. Sì, no, bella, che ci arrangia Graziano, però bello che ci rubati. Quando ce l'hai a conto tu è così, bisogna che arrangi tu. Io, vabbè, c'ho quelle condominiali, le autoclave, li abbiamo cambiati tutti e due motori da poco, perché uno solo dice che non fa cambiare, perché noi abbiamo quello che quando non ti dà bene l'acqua interviene l'altro motore, capito? Però uno era buono, ma li abbiamo cambiati tutti e due perché dice che uno solo non fa, perché se da uno gira meglio dell'altro, eccetera, eccetera, allora ce l'hanno fatti cambiare tutti e due, poi bisogna vedere se c'era bisogno o no, ma comunque è una cosa. La spesa, anche se eravamo in tanti, abbiamo pagato un pacco di dinero. Beh, certo, sono sempre spese, però naturalmente ci vuole ciccia. Va bene, dai, avanti qua. si riesce solo con la pressione, quindi se la palla dentro c'è acqua rimango nel barile che vuole cambiata, vuol dire che la gomma è scoppiata e bucata, capito? Grazie. Dunque vedi tu, allora lo metti detto Gigi a metterla in pressione, se funziona vuol dire che non c'è pressione, se non funziona la metti in pressione vuol dire che è bucata, allora devi mettere la palla nuova, regolare le tue valve, tutto qua. Era positivo. Eppure sai cosa succede, Cla? Che se l'acqua tutto a cambiargli la camera d'aria, se non conviene, conviene mettere tutto completo, capito? E poi pensare che neanche ne fanno più a ricambiare la camera d'aria. Prima era una con lui, adesso mi pare sono già saldate, come non si possono neanche aprire più, mi sa, non vorrei sbagliare. Prima c'erano tutti i bolloncini che smontavano, ma non conviene cambiare camera d'aria, niente, conviene mettergli la, se c'è la nuova gli cambia la foccia, gli controlla la pressione e inizia di fecondità nel muovere la pastina, tanto da un momento all'altro si rompe. Grazie. Ne metti, se ce l'hai già, hai detto che ce l'hai già, ne metti quella nuova, ti controlli, se non va bene tu con la pompa della bicicletta che non è giusta, vai da parte da un convinto, la fai a 1,8. Ma pure troppo sarà, perché come cosa potrebbe andare a 1,5, ma no, non andare oltre 1,8. Non portarla oltre 1,8 e gliela piazzi e vedrai che va bene e non ti crea problemi, capito? Grazie. Infatti domani mattina me la lanciano dal soppasso, quanto vado la gomica, la faccio 1,6, dove vengo prendo il pappagallo nella Svizzera e ci piazzo direttamente la nuova da buio ghida. Si la biglia, tanti già la giù fruttata, da Puglia, quindi zanne. Chiamano il pappagallo, la già vi piglia pappagallo. Già, per la giù, la Puglia di pappagallo, il laggio, di tutti i regali dai, va giù l'ufficina in casa, pa, per io non me ne manca. Che tutto il resto mi manca, ma proprio a perre. La gamba pigi, la gira per tutto, si apre un caraccio ragazzi, pinci, caccia, bici, ma sedi, apri la tua caraccio ragazzi, buono, ma questo è scalpello. Teglia, avanti giù. Ok, tu sei sempre di cani di buon pa, grazie, ma è domani, ma lui, la maglia che non si sanno a piedi, amici, ti danno i zani di cose. E allora, no, 6-7 mesi fa mi ho cambiato la guarnizione del prescotto, cosa si chiama, perché mi sono stata sgocciolando, allora l'ho smontato, mi ho procurato un paio vecchi, ho guardato la guarnizione più buona, gliel'ho smontata, gliel'ho piazzata ed è un bombo. Comunque è molto grazie, qua, vi sarà la partita stasera. E forse stasera è già stato. Ehi, Gaiani, buonasera Gappa. Sì, che l'ho vista, ecco, no, ho Mediaset il premio, mi ha fatto l'abbonamento per tutto l'anno. Ieri ho visto anche l'Inter, la Juve, ho visto tutte le sue stasera, mi guardo il Napoli. Ottima, grande squadra, veramente, grande. Avanti, chi vuole entrare? Buonasera, la rete! Ciao, Gaia! Quanto intende la voce mia, guai? Per il porto era lui! Affidai Massimiliano, avanti! Ciao, Fabie! Ciao, Affidai Massimiliano! Sei curiosa, Questi bambini sono curiosi, quando sono piccoli così, sono veramente belli, Vai, Massimiliano! Scusate, senta, ma io mi sono allontanato un secondo perché volevo un gioco, le sto mettendo le batterie lì in salotto, tanto non ho più vita, la gentesa da lontano, ma mi intendi? Ma è fatto in radio per caso? Non c'è chi entra. C'è allucinante, te ne immaginaci? Subito me, salva via, becco, kappa. Che sugo, eh? Ma tu vedi un radio per caso? Ciao. Ma per non entrare, magari fate danno, anche noi che è sempre doppende, è sempre dopo ci sono il palattino. Sì, ma se fa danno metti a posto. Avanti, già, vedi. mattina hanno sempre incuriosito i bambini perché sentono la gente che parla e logicamente anche Marco. Se no mette che tu mi dava Marco deve pure da buccio d'oro roba di uno. Sì, due volte la chiamavo a casa tua, la visione tua moglie, te l'ha detto in radio. Entrava, si accendeva tutto, sempre va tutto, oramai va a fare tutte le cose da fare, ed era piccolo lì. Vabbè, purtroppo sono bambini. E si fa, e sono anche molto svegli adesso, non so più come ti prima drummiti. Beatrice c'era, ti ricordi, quando era abitava qui a Ottava, andava, te l'accendeva e in garage parlava. E più di una volta ha parlato anche con me, ma è educata, aspettava che io sono vulcanino. Quello è l'altro, questo Alessandro abita qua adesso, prima abitava Beatrice, Beatrice abita con l'autore, non abita più qua, capito? Abita l'altro, mio nipotino. Ah, ecco, ecco. Ah, Vulcanino è l'altro. Beatrice pure mi ricordo comunque. Ma Vulcanino l'ho sentito in giro. È positivo che lui abita sotto e invece Beatrice andava se accendeva le tane, anche lui lo sa fare Alessandro, ma non voglio io toccarlo, anche lui a volte sa come si accende, come e sa cercare il canale, mi gira, cerca, se non lo trova qualcuno parlando, capito? Sono svegli adesso, non è più come te prima, no? Che se si credice più la cosa non la faceva, ma va di tutta l'azzurra, sono dipendente. No, fanno, ne sanno più di me, perché lui in certe cose deve collegare la televisione a tutto quell'affare che c'ha lui. Io non capisco niente, invece lui riesce a collegare tutto assieme, i giochi, quelle, adesso ricordo come si chiama, che non c'è bisogno neanche di fili, di nulla, amiche, che giochi a calcio, basta tirare il calcio e tirare il pallone, capito? C'è quel gioco che ti giochi a calcio, ti mette davanti, c'è come si chiama, che ti riprende e tu giochi, in due giochiamo a calcio, capito? Quei giochi lì e lui si riesce a collegare, non sono neanche collegati. Anche Marco, PlayStation, tutto quanto, per carità. Il computer non se ne parla, quando ero piccolo non sapeva manco leggere, lui però riusciva a trovare i siti dove c'era Pokémon, Dragon, tutti quelli che voleva lui, eppure non sapeva leggere, magari dal disegno della parola, eccetera, riusciva a capire dov'era. E ci cambiava il grafico delle canzoni, tutto quanto. Sono più svegli, molto più svegli di come eravamo, di come ero io bambino, perché adesso sono ho visto che anzi a volte mi corregge certe cose e da quando adesso vanno a scuola, noi invece quando andavamo iniziato in prima elementare eravamo più tonti, più cose, invece questi arrivano già a scuola che sono già iniziano già a scrivere tutto quanto i bambini di oggi. Sono nati nell'era del computer, sono nati col computer, quindi immaginate un po' noi il computer conoscevamo, o nel telefonino, nel computer, loro sono nati proprio in questa era dove c'è il computer, ci sono i telefonini, alta tecnologia in tutto, quindi immaginate cosa posso produrre. Avanti Claudio, poi fai girare. Comunque i bambini devono fare queste cose, perché altrimenti rimane in baretta. È giusto che capiscano, che vedano, che trovano. Avanti Giulio. Ok, sì, indubbiamente i bambini, diciamo così, sono un po' più precoci di come eravamo noi prima, sicuramente, i tempi naturalmente sono evoluti e allora è tutta un'altra storia, tante cose, ma noi stessi li abbiamo insegnato a una certa maniera, a un certo comportamento, a differenza dei padri di prima, che erano più timidi, diciamo, ma d'altronde i tempi erano quelli che erano, di conseguenza non potevamo essere vivaci come i bambini di oggi, come soprattutto i ragazzi, eccetera. Oggi già a 10 anni stanno già pensando alle donne maschie e le femmine stanno pensando ai maschietti, che si può immaginare. È tutto detto, no? A questo punto cosa vuoi che ti dica? Avanti lui! Oh Giulio, adesso dico una cosa, potete l'avrei fatto pure tu, sicuramente, essendo molto più grande. Io mi ricordo mio padre quando ero piccolo. piccolo che ancora quando non andava a scuola e si metteva a fare i conti, no? Era un po' un analfabeto. E tu ti immagini la calcolatrice che cos'è, adesso te lo dico. Quando c'erano C, c'erano C, ci sono una scatola e c'erano C, o C, o fagioli. E cominciava a punire, fagliare i conti, e poi li cavava, per esempio, totto, e contava che non rimaniani. E fagliare i conti, come si fa, con la penna, fagliare quello totto. E faceva i conti così. Capito, Giulio? Sì, anche quello era un sistema, ma quello era il sistema che adottavano certi genitori, no? Con i propri figli, proprio per fargli capire proprio dalla base com'è che si conteggiava le cose e soprattutto come si dovevano fare quei numeri. In effetti è così, lo so lui, invece oggi è tutto diverso, ma prima io mi ricordo, quando andavo a scuola io, prima di mandare ci facevano fare le altre, di voi immaginare, oggi invece vanno direttamente a scrivere, anche perché hanno fatto la scuola materna e dunque qualche parolina l'hanno già imparata a scrivere i ragazzini, che si può immaginare, è tutto un altro discorso. Ma mi ricordo in terza elementare che mi faceva fare il maestro Nasetto, avevo io, e mi faceva fare i problemi a 13 a 15 operazioni, cose assurde. Oggi nelle medie, io mi ricordo, i ragazzi di oggi, anche i miei nipoti, che tuttora ne ho, i miei nipoti che sono alle medie, fanno i problemi a 3-4 operazioni, non di più. È assurdo, e in terza elementare facevamo a 10, a 15, a 13 operazioni, molto articolate anche tra l'altro come problemi, eppure si svolgevano. E oggi invece in terza media magari non riescono a risolverli. Ma questo non c'entra niente col discorso e con la vivacità che hanno oggi i giovani, è tutta un'altra vita, è tutto un altro modo di vivere, è tutta un'altra lucidità che hanno di mente, eccetera eccetera, capito? Ecco com'è la storia. Avanti già. Gianni. Comunque oggi un'altra cosa, prima noi non ci, guai che, a parte che non c'era neanche queste calcolatrici portatili, non me le ricordo, se c'erano adesso non me le ricordo di queste portatili, però non si potevano adoperare a scuola assolutamente, tu non potevi adoperare, invece adesso vedo si portano calcolatrici, si portano telefonino, fanno conti, invece prima queste cose non esistevano, non potevi tu farti un conto con una calcolatrice, ma assolutamente. Invece oggi so che te lo fanno anche con le calcolatrici, io ho sentito lo possono fare con le calcolatrici a scuola, ma noi totalmente d'accordo, non ce n'era calcolatrice, non si poteva fare assolutamente, non esisteva proprio. Infatti non esisteva proprio, oggi non ho capito, cioè si può dire che esiste, perché vedi bene che oggi a scuola addirittura si portano il libro elettronico, non portano più i libri di carta come avevamo noi, aprono un computer, ragazzi, un tablet o qualcosa del genere e hanno il libro elettronico e tutte queste cose. E naturalmente c'è stata l'evoluzione della vita e devo dire che è stata anche troppo precoce l'evoluzione che c'è stata, ma in tutti i settori, non solamente nella scuola, in tutti i settori, anche nei mestieri, nel modo di vivere, nel modo di mangiare, nel modo di vestire, anche addirittura nel modo di camminare, insomma in tutto e per tutto c'è stata un'evoluzione radicale proprio al 100%. Andate qua. Purtroppo si cambia, perciò bisogna dare spazio anche alle novità e alle nuove cose. Chi è che vuole entrare avanti? Massimiliano che ha detto che doveva sentarsi e me l'ha detto a me mentre stava parlando Giulio che doveva sentarsi urgentemente, capito? È stato Massimiliano. Ok, d'accordo, avanti Gianni. Gianni non si è sentato sicuramente. Cazzo, sto guardando adesso i risultati delle altre partite e Cagliari ha perso 4-1, un Jesus, sta a vedere ragazzi che retrocede, perché esattamente 1, 2, 3, 4 e quest'ultima è, ti puoi immaginare, a pari punti con Torino, prima del Cagliari c'è il Bologna, il Palermo, 15 punti che hanno un punto in più del Cagliari. Se non si è anche la città, è un Cagliari a 6 della Serie B. Sì. Oh, Cagliari, ma che ore uscire domani mattina? Ma il caffè è già per paghi o vai tardi tu? No, prima ancora, prima mi ritorno la cosa. ci va sempre lì, Benito ci va. Benito a volte la mattina lo sento e sta andando lì a Santa Giusta, proprio lì a ritirare roba di uli e di coso usati, e va sempre in quella zona lì, Benito la mattina. Allora sicuramente vabbè, ma il baracchino non ne ho, se ne metto mi metto giusto per fare compagnia, per fare due chiacchiere sui ponti, può essere, no? Baracchino non me l'accorto, capito? Non c'è il tempo per stare lì, cioè che là, devo andare a tornare, ho mille cose da fare. Domani inizio settimana e ne abbiamo già 17. Devo terminarmi anche tutte le cose per fine mese, se no devo che travagliare a Natale, c'è a Fortezza, a Capodanno, buh. E lo so. No, io ho già contato, adesso alle 6 domani mattina devo accompagnare a Mario a Macomè e poi devo andare a Calabria a scaricare, poi devo scendere a Oristano, non molto a scaricare a Calabria. E poi, rientrando si fa la giornata completa. Kappa, va bene. Positivo, va benissimo. Avanti Gianni, ci sei? Graziano? Ehi, già ci sono. Io domani sono impegnato. Devo aspettare il corriere che mi deve portare 25 bottiglie di vino. E poi l'hai proibito di vino, dottore, ti senti quei polli di vino, ma pago del tuo vino, non fai meglio andare a cantina e comprare a tiro, grazie. No, che questo qui è delle cascine di pietra, questo è tocco. Lo sai, delle cascine di pietra? Non ti pare che ti imbrogliano quelle pubblicità che fanno in televisione e fanno vedere tutti quei vini che non servono a niente. Mio cognato fregano sempre, a una certa età, quando vede queste essenze, a fatto arrivare tutto questo vino, e non, guarda, non ce n'era una bottiglia che valeva di questo vino, non valeva niente questo vino, non mi fate fregare, guarda. E poi costa anche caro. Non ti credere, no, non è che lo pago molto, 135 euro, lo devo pagare. No, ma siccome c'è un amico mio che abita lì, capito? E ogni anno a Natale mi telefona e mi dice se lo voglio, e lui me lo spedisce. Non te lo regareggia, te lo fa dei pagani. No, perché è del padre l'azienda, capito? Questo qui è un amico mio che aveva fatto il militare con me, anzi, mi voleva andare a travagliare alla fabbrica Ivanieti, all'azienda, non ci sono mai voluto andare io, manco a fare i viaggi quando faceva viaggi. Scusatemi, lui, dai, vi devo lasciare che senta mia sorella, mio cognato e due mini nipoti, i figli praticamente di mia sorella. Dai, vi devo salutare, grazie per il QSO. Ciao Claudio, ciao Graziano, ciao Luigi, salutoni, Gianni, sì, ti ascolto, ti saluto, alle prossime, dai. Se vanno via subito, ma non credo, che sicuramente adesso le inviterò a cena, e dunque faranno un po' tardi, se non ci sentiamo, se vanno via subito, non lo so, ci sentiamo più tardi eventualmente. Ciao a tutti, riprendi qua, ascolto fino a lì e poi chiudo. Ok Giulio, cordialità e saluti, dai, rimaniamo d'accordo come siamo rimasti d'accordo. Ci sentiamo, fammi bene, alle prossime, buon fine domenica, avanti Gigi. Positivo, ciao Giulio, dai, fate buon proseguo della serata e attivi, dai, ce la ascoltiamo nel migliore, ciao Giulio, vai, grazie. Ciao Giulio, buon proseguimento di serata, tu al Correa e non mangiare molto, ciao. Buonasera, dai, sono rientrato, mi sono andato in una partita che avevo un pucciolo di stomaco. Dai, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione. Ciao Gianni, salutoni, sto chiudendo anch'io, dai, alle prossime, grazie a tutti per il QSO, ciao. Gianni, ma non ho capito se stai chiudendo o se ti hai preso la pastiglia per il bruciore di stomaco. No, no, non sto chiudendo, sono andato a prendere una pastiglia perché ho mangiato forse troppo esagerato col pane carasau, quel formaggio famoso, la crema di formaggio così. Io ti ho mangiato la leggiumi, giovedì l'ho mangiata, proprio vuoi dirmi saltando, e l'ho mangiata giovedì, e mi è toccato di dirmi un poco di vino pure, mannaggia, quasi un litro di vino ma giovedì, che non stiamo bevendo, però me lo bevevo lì a butto su e c'era un po' stata di salsiccia arrosto e formaggio maccio è un po' esagerato anche col bicchiere, là, dico la verità. Vabbè, anche io qualche goccia di vino l'ho bevuto, non tanto, ma un bicchiere me lo sono bevuto, là. Solo che quel formaggio va gustato con il carasau appena appena, invece io ho abbondato perché mi è piaciuto. E dico la verità, mi ha fregato, eh. E tante volte abusare fa questo effetto. Lo so, ehi, vabbè. Vabbè, io penso non è che ne possa mangiare comunque, l'ho mangiato l'altro giorno, l'ira che ci ho mangiato. Ne ho mangiato anche salsiccia rossa, ho mangiato parecchio, ma avevo fame, era luna così, avevo fame, mi hanno invitato e dico che era dritta, ma ci ho mangiato. Ho ripreso? Capo, ripresi Massimiliano. Vabbè, non ho seguito tutto il discorso, ho ripreso adesso perché mi sono assentato un attimo. Non so di cosa stavate chiacchierando, ho sentito solo di formaggio e ho sentito l'odore e sono entrato. E niente, ho detto solo che sono andato a prendermi una pastiglia di Malox perché ho abusato mangiando quel formaggio con i firmi. Col pane casa, un bicchiere di vino, mi ha fatto bruciare di stomaco e mi sono preso un Malox là. Ah, positivo, ok. No, Cico, lo stai usando tu per caso? Quella fogliette nero con l'MB+5. Positivo, Massimiliano, non so, non ho regolato nulla, adesso io non ho neanche chiesto, ma avete detto nulla vuol dire che stiamo andando bene. No, i toni è che non mi piacciono più di tanto, capito? Ti fa una voce un po' strana. Sai cos'è? Adesso io l'ho regolato all'altro, adesso questo io non mi ricordo com'era. E cosa vuoi che ti dica? Devo aumentare o abbassare? Cosa devo fare? Così l'ho appena aumentato. Devo aumentare o abbassare? Non mi avete detto niente. Provo a aumentare ancora, vedere. Noi tu, io ti ho aumentato il volume. Il volume è aumentato. No, il volume va bene. I tuni, lui. Prova i tuni. Devo stare a parare. Allora, così sto scendendo. E cosa è successo? Così, allora, prima era così. Così sono sceso da appena verso. Non so, devo andare al contrario. E prova a andare al contrario, cosa succede? Allora, così l'ho aumentato nella tacchetta, vedi un po' se dipende da questo. Eccolo qua. Adesso sei tu. Perfetto, adesso. Gianni, confermi? Può fare un passaggio lungo? Però ho aumentato il coso, anche il volume ho aumentato un po' il volume, guarda un po' se va bene così. È diminuito, ho aumentato, anche era mi pare più basso, vero Massimo? Ma forse c'hai quel potenziometro al contrario, ho capito. Il volume lo dovevi lasciare così, i toni era che dovevi toccare. Allora, il volume era così prima, il volume era così. Dimmi se deve rimanere così il volume. Ecco, per me il volume va bene, cioè la radio non è questa prepotenza, però va bene. Sono... aspetta, allora, adesso te l'ho aumentato ancora, ma non penso, vedi un po' che l'ho aumentato un po'. Ma potrebbe andare anche così, ma comunque come prima era meglio, va. Allora lo metto tra prima e metà, guarda un po' se lo devo abbassare come era prima. No, così va benissimo, in questo passaggio va bene. Claudio, tu come lo ascolti? Va bene, regolate pure, regolate. Ciao, Magava. No, io lo ascolto bene, in questo passaggio ti ascolto bene, Luigi. Aspetta un attimo. Sull'altro perché se lo lascio regolato così e mettendolo nell'altro apparato non va più bene, devo regolare nuovamente, però sto guardandomi la posizione così so come lo devo mettere quando lo attacco qua, quando lo metto in questo baracchino so già più o meno come mettermi in famiglia, dai. Dimmi, Claudio, Claudio, tu che sei, che hai le orecchie più grandi, che ascolti meglio questi, questi microfoni, dito la tua. Nessuno, io ho, come ho attaccato, stavo parlando, non nessuno mi ha detto niente. Ci vuole un po' più di basso, era l'ora Massimiliano, era accettabile, là. Sì, sì, attenzione, andava bene, ma comunque così va meglio secondo me, è più, diciamo, è più voce sua in verticale, là. Positivo, là. Così va ancora meglio, guarda, ne abbiamo girato il tono al contrario, così va ancora meglio, vero? Io lascio così, lascio, che va bene. Positivo è K di Rogero. Tu c'hai l'FM lì, Gigi? No, da prima dell'FM già ce l'ho. Ho messo dentro il bubble che c'è fatta cosa, fa da rimbomba così, vero? Rimbomba diversamente, non posso io da, da sotto. Perché così dovrebbe, messo dentro questo vuoto che c'è sotto, tende a rimbombare. Fa effetto camera, ma comunque è accettabile, va bene comunque. No, perché di solito avrebbe appoggiato sopra la sedia, invece così appoggiato, però sotto ho capito che fa, fa sicuramente d'accordo, perché se c'è, c'è il mucchio, essendo incassato, deve essere fuori libero lui come corso. Ma io no, la cosa lì fa non naggio, è un po' così. Cosa vuoi sapere con l'FM? No, volevo sentire l'FM con la radio. La mia? Aspetta che se mi ricordo dove era te lo metto, vai in FM, dai, vai in FM. Io qua ci sono, aspetta. Oh, ok, io ci sono. Siamo la civiltà, che parla che noi? Il mio? Mia. Questo è il 757. A quello che ha aggiustato, magari vuole, vuole una linea di finali, perché, perché in quegli apparati lì bisogna fare l'allineamento dopo che diventa. Ma non si deve allineare i finali, non si intende. I finali allini, veramente i finali con la radio. Ma io se non vi ho, se non vi ho spostato per niente, cosa devo allineare? Io vi ascolto perfetto, non ho spostato niente, è abbastanza allineata, no? Oh, Massimiliano, in FM che io non ti sento bene, dico la verità, non ti sto dicendo cazzate, ti sento proprio spostato come se fossi dall'AM all'FM. Poi non lo so, è una questione di, è una questione di radio, non lo so che cosa sia. Comunque so che nei baracchini finali li metti e li lasci così, invece che negli apparati più professionali bisogna fare un allineamento. Non penso comunque che sia così, Le finali con l'allineamento non mettono in nulla, i finali sono di potenza, non di allineamento di radio. Ma bisogna... vabbè, dai, non lo so, io non me ne intendo, però ho sentito dire così. Io mi sono informato anche da quell'amico che c'è sul continente, non vuole assolutamente allineato niente. I finali con l'allineamento della radio non mettono proprio nulla. Poi cazzate mi hanno detto, cazzate ti dico, attenzione già. Tu sei qualcosa che vuole allineata, Claudio? Claudio, vai da M. Cosa qua è da M, ma si va a serare. Sicuramente, vai da M, Claudio. E via. E è tutto proprio, sicuramente è rimasto in banda. Cos'è che hai detto? Io ero in M, ero in banda laterale, infatti. No, e infatti ho detto, ripassiamo in AM, visto che mi ascoltano male in FM, in USB, bisogna stare cercandoci uno con l'altro, ho detto andiamo in AM e via. Tu sei qualcosa, Luca mi ha detto che qua una volta che sostituisci i finali c'è la radio, era a posto, non c'era da toccare niente, che con i finali di potenza l'allineamento della radio non c'è da toccare niente. Poi tu sai qualcosa? Io so che la parte del finale è una cosa, la parte del VCO è un'altra cosa, la parte del PLL è un'altra cosa. Se poi ho studiato per insegnarmi cazzate e coglionate, allora meglio non andare a studiare. Quello che ti sto dicendo io infatti, no, perché Gianni ha detto una volta sostituisci i finali che vuole allineare la radio, ma i finali di potenza con l'allineamento della radio non c'entra niente, infatti ti ho chiesto un parere tuo se sapevi qualcosa. No, non c'entra assolutamente niente. Non nessuna parte, né nei baracchini, né da nessuna parte. Assolutamente. Non so che è successo, non si vede, non so che. Io ti ascolto bene in AM, in FM, in banda laterale. Ma tutte le parti, quindi non so cosa dire, non voglio entrare in merito alla radio migliore di uno, dell'altro, quello che ce l'ha centrata, quello che non ce l'ha centrata, ci sono già passato in questi discorsi, non mi interessa. Cosa c'entra? Stiamo chiedendo un parere, cosa c'entra? Tirare su una polemica che non esiste, capito? Stiamo facendo un discorso, cosa c'entra questo? È un parere tuo, stiamo parlando, siamo in quattro. Stiamo chiedendo un parere di tutti, cosa c'entra? No, senza nessuna polemica, no, cosa? Non vuol dire niente questo. Avanti, giri, prendi. Ehi, ma Silvia, tu non fai polemica, tu che stanno ascoltando, capito? Vengono qua e mi dicono, tizio, ok, io sempre unico, ha detto, usci. Non so come mai cosa risponderti, ma Silvia, capito? Perfetto, io, nelle mie radio, ne ho 5 DHF, di cui una nuova ribatta digitale, al 100%, stai arrivando benissimo alla grande, poi di quello che come ti ascoltano gli altri non so il perché, ecco lì il problema. Beh, è positivo, e va bene, ok. Ma comunque, quando ci sarà l'occasione glielo voglio dare a Fabrizio a darle una controllata, giusto per vedere se è spostato, visto che lui c'è un po' di strumentazione. Per darle una lineata, per vedere se è fuori questo, come quasi che sia fuori questo, e attenzione. Però io non mi devo spostare da nessuna parte per ascoltare a tutti. Siete centrati tranquillamente bene, però vi voglio togliere questo sfizio, capito? Quando c'è 10 minuti di tempo, Fabrizio. Probabilmente sa cosa c'è, Massimilia, che tra apparati professionali l'FM è più stretta, magari ti ascoltate bene, invece qua è più larga, è normale che magari ti ascoltiamo, ma io a Claudio per dire lo ascoltiamo bene, è quello che c'è. No, già c'è l'FM larga e l'FM stretta, tutti i baracchini hanno l'FM larga e quindi non è esattamente così, cioè tu c'hai l'FM a poco, come c'è Gigi, come c'hanno tutti. C'è evidentemente qualcosa anche atmosferica che le permette di avere una radio un po' diversa, quindi un contratto anche atmosferico può essere, non so. È positivo, no? Positivo a caparro. Ma comunque, per togliermi lo sfizio, mi hai capito, Cla? Giusto per fargli vedere anche se va bene, se non va bene. Come può darsi pure che, ti ripeto, sia spostato appena appena questa e magari mi ascoltano così per questo motivo, là. Ok, riprendi il doppio room. Per dire, in AM sei perfetto, sei... cioè, vai alla grande, te l'ho detto. Con una bella radio e tutto. Però... là non è chiara, capito? Io dico la verità, non è che sia invidioso di nulla, né niente, non lo dico per invidia o che cosa. Io ti sto ascoltando così e poi, vabbè, è quello che c'è, capito? Ti ascolto così e ti dico come ti ascolto effettivamente. Ma io non ribadisco questo, Gianni. Sono tranquillamente d'accordo che mi ascolti così, capito? Infatti... quello che ho detto a Claudio, mi voglio togliere lo sfizio di farglielo, di portarlo a lineare questo, come può darsi pure che si è spostato appena appena questo, hai capito? Quella appena appena, e per questo motivo mi ascolti così, ma ci credo che mi ascolti così. Va bene, Gigi. Via, questo è fatto bene da me, fa l'ora che io chiudo per il momento, dai. Al limite entro più tardi, se ci siete ancora, se c'è qualcuno, dai, per il momento chiudo, devo risolvere delle faccendine per domani, mi devo preparare per lavoro e via dicendo, dai. Fate buon così, forse io per il momento chiudo, vai Massimo. Ciao Gigi. Ciao Gigi, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento. Avanti. Ciao Gigi, buon proseguo di serata, buon fine domenica, alle prossime, ci sentiamo. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Gigi, ci sentiamo alle prossime. E anche io qualche altro passaggio e poi vado a farmi una passeggiata anche io, no? Mi sono con tutta la vita di Trento a casa. Oggi abbiamo fatto una bella scorpacciata di pesce che ci voleva, era da un po' che non ne mangiavo, un bel trozzo di vino e via. Da campa. Che cosa hai fatto? Sardine? No, negativo, a me la sardina è un pesce che non piace. Abbiamo fatto dei mugini arrosto con la salamoia e delle orate, capito? Io il mugine, la sardina la odio, non mi piace. Mi piace solo comprarla per andare a pescare, boh, basta. Per la sardina preferisco l'usarretto. No, ma questo è di gusti, ma la sardina la fate salamoia, è buona, è pesante, perché pesante, ma è buona. Io invece i mugi, da quando li ho visti mangiando la fogna, non le mangio più, mi fanno senso a mangiarlo. L'orata già mi piace, l'ho fatta al sale, in cartuccio, così, fatta in grattico, è buona, è buona. Non ho capito questo, il mugine mangiando la fogna, cioè mangiando la cacca. E a Portocolles praticamente ci sono degli scarichi nel molo, no? E un giorno passeggiando con mia moglie abbiamo visto i mugini che mangiavano la roba che usciva, ragazzi. Ma fa rado, si a migliaia ce n'è. E dal giorno mi sono mangiato più di mugini, mi hanno fatto un senso allucinante. E tu pensa che la settimana dopo che abbiamo visto questa cosa andiamo a casa di mia suocera e vabbè ci dà la pasta, fate la fiori e poi ha tolto questi mugi. Ci siamo guardati con mia moglie, ha detto no, io non ne voglio, lei lo stesso, ha detto non è successo, e perché non le volete, non vi piacciono? E no, non è che non ci piacciono, ma non ne abbiamo voglia, vabbè non ne abbiamo mangiato. Poi mia suocera l'hanno mangiato tutto quanto e ci ha chiesto il perché e allora gliel'abbiamo spiegato. Beh, non li compagiamo anche più edda. Ah, sono macchini, perché la spigola cosa mangia? Non mangia mondezza, eppure la spigola va. Comunque, quelli che compri ormai non sono più di mare, o nel senso non è che li pescano nei porti. Ma ormai i mugini sono quasi tutti di allevamento, come le orate, come le spigole e come quasi tutto il pesce di mare, è così. Comunque questi erano di Oristano, non erano del porto, poi li ho visti anche io mangiando schifezze, ma bisogna vedere, anche l'orata mangia schifezze e anche la spigola mangia schifezze e tutto il pesce di mare mangia schifezze, noi non lo vediamo, ma comunque mangia schifezze uguale. La spigola una volta questo mio collega ne ha preso una da 20 e passa chi? No, forse una spigola o una ricciola, adesso non mi ricordo, ne ha trovato un topo dentro. Ma sai si è fatto? L'ha aperta, l'ha cavata un giurigo e l'ha venduta a trancia. Infatti te lo stavo per dire, perché la spigola mangia il topo. Che non le pescano col topo, lo sai? Vanno a prendere i tupi e poi pescano le spigole col topo vivo. Te lo sto dicendo, quindi vedi un po', eppure la spigola non mi puoi dire che è migliore del mugero, cioè nel senso non migliore nel mugero come pesce, io preferisco la spigola come tipo di polpa, come tipo di carne, è proprio di polpa diciamo, eppure la spigola mangia più schifezze del mugero, per fartene capire una. a pagare. E vabbè, lo sai cos'è? Che se non lo vedi magari non ci pensi, ma quando lo vedi e te lo presentano, pensi a quello che hai visto, capito? E quello è il problema, non è che lo so anche io, che perché questo è mio collega, ma è tre cose a fare, ti darà un palo, che te la manna, ero troppo contento che l'ho pescata così grande, che se invece l'ho dovuta vedere perché ci aveva il troppo meno. Positivo, positivo, e vabbè, come tutti gli animali comunque, anche perché anche tu prendi il maiale non è che mangia solo farinaccio e avanzi, tu chi su cacciapa, chi su frantumeggia, eppure la carne al maiale è buona. Tutto lì, Claudio, cosa si commenti? Stavo ascoltando, sto facendo gli spostamenti qua, spostamenti. Prendo delle misure per vedere come puoi sistemare tutto, perché devo completamente rifare tutto. Giulio sta facendo i, come si dice, separe, non so come chiama lui, il gergo suo, comunque. Praticamente quel piano che hai visto, quello va tolto, l'ha fatto il piano a due piani coperto come una grappa, diciamo, capito? Per tutta la sezione della base, quindi tutta la L, e poi l'ha messo a nuovo della TV e tutte le altre cose, e quindi l'ha smontato da tutto. Stavo prendendo le misure per vedere più o meno dove mettere le linee vanno con le linee, l'HF con l'HF, il VHF con il VHF, insomma ci vediamo un po' là. Perché devo fare tutto a capo, comunque, piano piano, già quando è pronto lui che viene qua, già stiamo tutto. Positivo, ma lì nella parte dove c'è un armadio rimane vuoto così, o prosegue quella parte lì? Là. No, lì ci va l'altro pezzo, e poi ci va il divanetto lì, e basta. L'armadio va fuori, sto già svuotando. Praticamente le due basi, la L, tu già l'hai vista come è fatta, la L deve sollevarsi con dei ripiani, a due ripiani, per far sì che ogni radio abbia il suo scompartimento, capito? Non so se l'hai mai visti. Tipo, sì, ho capito come li vuoi fare, sì. Ogni radio è singola, diciamo, dai. Sì, esatto, anche se, cioè, una sopra l'altra non ci sono già adesso. Comunque andranno separate, fatte una cosa tipo quella che avevo prima, per capirci, che avevo fatto io quando andavo piano, però questa è praticamente 5,40 va bene, e devo finire qua perché poi devo mettere anche il commissionatore, quello piccolo, e perciò visto che è tutto smontato faccio già il foro del muro, tutto, capito? No, è un casino, già verniciato, pulito tutto, l'ho messo a quando nuovo, eccetera, quindi io ne ho scatola piena, mi sto è giusto così per avere tutte le ordine, non mi piace avere tutte le ordine, sennò non aggiungami. Ma io pensavo che ti stavi prendendo le misure per su, capito, che dovevi andare su nell'altro piano, capito, credo che ti stavi facendo la sala radio su. Infatti ho fatto le radio, uno due era bello. E poi in ogni caso ne farò due, dipende, adesso vediamo. Non lo so, sto decidendo, Massimiliano. Stiamo decidendo. Adesso a fine anno te lo dico. A fine anno decido cosa fa. Se sali nel suo è tutto. E affittarmi questo, se sali nel suo quindi mi butto. Quanto è grande? 50 metri quadri, 40 metri quadri. Te lo vendi, gli altri vale, 20.000 euro. Te lo vendi e via. Cosa te ne affutti, cosa te ne fai? Un bacio alla gana, ragazzi, un bacio alla gana. E manco male, manco male, viola San Francesco, Giova. Addirittura l'arrivo, ma qui le mani che ci bloccano, Giova, quello nuovo. Se fatto fatto con Brash, per carità di Dio, ci può più vivere. Vabbè, comunque. E adesso chiederò, adesso lo do a Tecnocasa, lì via Pasqua, e come ho fatto l'altro. Devo ricco di prenderlo, perché io uno, io, uno del garage non è caro, ma l'altro più. E biodo, è una macchina, e manca affitto e pagendi, perché è un amico. C'è la moto di Cosio, di Sergio, c'è la moto di Tore, ma non me ne ha fatto nulla, capito? Non sono quelle, quelle 20-30 euro, no? Non sono molto di fan, ma il problema è che a fine anno costa questo garage, quindi o c'è un resoconto, altrimenti alla fine conviene l'altro. Positivo, positivo. E io il prossimo anno lo stesso, il prossimo anno a fine febbraio vado via da qua. Vado via da qua e vado da un'altra parte a abitare. E allora lì a Bussurvali sui Bari Biasi. Tutta un'altra guba. Io qua, grazie a Dio, sto bene. È un investimento ho già fatto e quindi non voglio perderci, sto scherzando, non voglio vendere niente. Dobbiamo decidere se andarcene su, io e mia moglie qua lasciare tutta l'aria, o se l'aria andarcene su, e qua continuare a rimanere noi, però vedere capito, ancora non è deciso niente. C'è ancora da fare porte, c'è da fare tutto, adesso voglio venuto giù, abbiamo fatto preso un po' di misura, ma non solo qua, sono altre cose che sto facendo. Va bene, dai, non parliamo di lavoro, cazzo, domani devo andare a Arborea, ma scendia, mamma mia, c'ho i cingoli, te lo vedo, i cingoli del mini scavatorino del fiorino, lo devo portare a Arborea domani mattina a prezzo, e c'ho il mini scavatore senza cingoli, una rottura di spalle che non ti dico, cazzo, non ti dico, non mangio nana, non vi volevo andare, no, devo andare io, non c'è niente da fare, e ci sia uno, cazzo, che riesce a muoversi. Handicappati, gatti, conosce l'altro, ripeti già. Allora come si è venuto per la Sindria? E vado a scarico di Sindria, ma come periodo? No, a parte gli scherzi, lontano. Vabbè, piano piano, speriamo che ci sia un bel giorno, bella giornata. Scusate, dovevo andare stamattina, ma l'hanno fatti caricare ieri. Dovevo andare stamattina, poi ci avremo appuntamento. Appuntamento, oddio, Gianni, capito, c'è lo sasso e ci prendiamo caffè, va bene, quindi siamo visti 5 minuti, ma 5 minuti, inizia a fare segni, vi ho preso caffè, Giampaolo che dovevo portare la tappa del coso, dell'Alan 48, quindi lo scendo a Protosa e poi se un dovere dobbiamo andare a Arborea, poi a Giulio, Luisa Guriana e Levami, c'era Sandro e Gigi, a Ottava, ho visto, allora mi sono fermato, ho preso il caffè con loro, due chiacchiere con loro, ci ho fatti i visi, e gli dicevano non dobbiamo dice lo quando domani mangiamo, non oggi, capito? Perché dovevo portargliela oggi, e allora domani mattina loro quando fanno il primo turno alle 6, ci hanno già tutto pronto lì e se lo piattano e ci mettono a lavorare, ma i zittani che andare in muro, prima delle 9 non sarò lì. Casino, e vabbè, non ce l'ha fatta. Mi raccomando, ce la possono fare. Vabbè, se no stamattina magari ti portare qualcuno a farti compagnia, una chiacchierata, tirare dall'altra e magari il viaggio lo affronta prima. No, non posso sedere nessuno con la macchina in servizio, se no mi vedi niente, non c'erano problemi, capito? Non posso sedere nessuno con la macchina in servizio. C'è un ordine di servizio già l'anno scorso perché un mio collega, oltre a essere imbecille, no? È anche pronto. L'estate, non so se l'aveva detto la giornata, ci è uscito fuori strada andando a Santa Teresa di Gallura e aveva dato un passaggio a un autostoppista a un peso. E l'azienda non solo non vi dico del casino che è successo, comunque l'avevo detto anche in radio. Capito? È toccato a pagare pure a Vindu, quindi assolutamente nel modo più assoluto se avere gente non abilitata appunto, non colleghi di lavoro, solo colleghi di lavoro. Vabbè, comunque tutte le dico. Io una volta ho fatto un carico di donne. Questo qua mi ha detto, questo ma sempre i cigari che va. Hanno andato in giro, ho trovato 3-8 stupiti, ho fatto 6 litri di furgone. E gli ho dato un passaggio, mi hanno invitato a casa loro, tutto qua, cazzo qua. Erano tipi che c'erano la casa dei genitori, i genitori erano nati fuori, quindi l'avevano lasciata loro continentale. E questo camionista mi ha visto caricato e poi mi ha detto, mi ha detto, cazzo, ma c'è per i cigarri che vai? Sì, io come ragazzo, non vado in India, andando a Corea, la posso caricare? Lo sì. E vabbè, diciamo che quelle zone lì magari non ti vedono, ti possono vedere qua, ma in quelle zone chi c'è? O c'è altra gente che lavora lì? Già, ci abbiamo 800 impianti in tutta la Sardegna, provincia di Sassari, provincia di Nuoro, provincia di Cagliari, provincia di Aristano, tutte le province, Olbia, Tempio, tutto. Ce ne sono 250 di quelle macchine rosse, tutte con i numeri, tutte con i satellitari. Immagina di tu, io figurati che sono l'unico senza numero, perché la mia è senza numero, ma voi che non mi vedano, Olbia, sono tutti in agguato. Però sei circondato, e se di qui sì, non conviene manco farlo. No, io... Ma adesso non lo faccio più, ma prima già ero bifidiato, davo passaggio alle ragazze, quando facevo autostop, eccetera. Oh, scusate un attimo, io vi devo lasciare, che devo uscire, là. Allora, vi saluto cordialmente, buona serata, buona continuazione del QSO, grazie di questo piccolo QSO. Buon viaggio, Cla, per domani mattina, allora, Alborea, penso che ci metterai un'ora e mezza almeno ad arrivare. Va bene, vi saluto di nuovo, buona serata, buona continuazione, ci sentiamo alle prossime, io chiudo momentaneamente, dai, ciao ciao. A te ma ci vediamo. Dimmi. Il cartello Arborea non c'è, deve fare il passante giusto. No, ma lo sai che non lo so, sì, sicuramente comunque devi entrare per Santa Giusta. Perché mai detto Gigi stamattina subito dopo il bigio Rizzano, cioè Rizzano Nord e Rizzano Sud, comunque, vabbè. Dopo che lascia Rizzano c'è il bigio di Santa Giusta, devi entrare lì. C'è un pezzo rettilineo, una rotonda e poi c'è il cartello Arborea. Io devo andare da 3A, 3A dovrebbe essere in le fasi di un gasificio, deve essere lì, perché di fronte al gasificio c'è il depuratore. Positivo, so che devi entrare per Santa Giusta, sì, mi trovo per dire io, c'è il rettilineo con la rotatoria, perché io ci ho lavorato lì a Santa Giusta e c'era il bivio di Arborea, capito? Sì, entri per Santa Giusta, per il rettilineo, alla rotatoria ti trovi il cartello Arborea. Prendi quello, poi sicuramente ci saranno le indicazioni dove devi andare tu o Cla. Io, tu devi andare a Arborea Sud, così, cosa hai detto? C'è questo caseificio di Arborea, ma detto Gigi che è lì nel rettilineo prima di arrivare a questa rotatoria. Quando arrivo a questa rotatoria mi devo tenere a sinistra, c'è questa 3A si chiama, che è praticamente è il caseificio di Arborea, e lì di fronte ci dovrebbe essere il depuratore. Così mi hanno detto, l'unico impianto sono andato da tutte le parti, ma questo di Arborea l'ho buttato là pure quando era resa. E ci sono andato, ma adesso è da tanto che non butto, vabbè, c'è la giacca, e se non la giacca va giù un telefonino, dico guardatemi con i satelliti, dove sono, ditemi dove volevo andare, se no me ne gioco più grande da rete, me ne scendi dal culo, voi rigidoli, voi via da qui. Va bene, dai. Va bene, allora buon viaggetto per domani mattina, ci sentiamo. Pure rientrando, se vuoi passare a controllare le foglie bancarie, siamo a buon punto. Ciao, Asci. Ciao, ci vedi che lo so che siete a buon punto. Abbassare la storia di suo impianto, per carità. Se ti dico che dovevano consegnarmi oggi lo Marangoni il 26 di giugno e siamo a Rosenisi di dicembre, ancora c'ho a consegnarlo, oggi il 21, va tranquillo, il 21 inauguriamo, sì, il giorno a Natale la giurita inaugurati, è un picchetto per tutti quanti. Allora Cla, parlami di questa sigaretta, parlami di questa sigaretta, ma l'hai cambiata poi? Non l'ha cambiata perché tiravo e mi ingoiavo questa cosa schifosa, praticamente non fa dire a fumo, come quando metti le gocce in bocca, cazzo che schifo amara, e dice che era difettoso, allora è andata in aria e me l'ha cambiata, ma allora era piena e ancora a metà, ancora a metà. Ma guarda, Pini, non attacchi un voce, dici, ma per una moto gatto, una sigaretta, c'è un profumo che fa tanto allucinante, io lo voglio sempre con la finestra aperta. Va bene, va benissimo. E vedi dove la comprate l'aria, che meraviglio pure io. Aspetta che praticamente il regalo è di Natale, siccome non dobbiamo andare a nessun posto quest'anno, perché io lavoro il 25 e quindi detto papà io ti ho fatto il regalo per Natale, però siccome siamo a casa, se ti va te lo do prima, così almeno inizi a prendere, io l'avevo già capito che era questa. E quindi me la dà, però non mi ha detto dove la comprata, anche chi la mia moglie. Ma qual è? Smoking, smoking. Allora, non ho capito, Maxi King, Maxi. E praticamente, cioè, sembra una penna con un buchino, e poi c'è una capsula trasparente con un interruttore, che si chiama in blu. Tu devi pigiare l'interruttore e aspirare. Ed esce un fumo profumato, ma ti dico la fine del mondo. Questa però, a quanto c'è scritto, è solo nicotina, capito? Tira il senso proprio della nicotina. E quindi non è ne puoi fumare un bene, infatti io faccio due o tre tirate e poi la metto a parte. Dopo una mezz'oretta la riprendo, magari faccio altre due o tre tirate. E ci ho fatto un tuneggio, perché è tutta nicotina, un sistema di nicotina, non so come cacchio è fatto, comunque già. Così mi hanno detto, dove l'ha comprata questa penna? Io voglio sapere già, dove l'ha comprata questa penna? Via Bria Cacciasseri. Ma è tabacchino? Allora, è un negozio a porta, ne stanno aprendo un mare, è pieno di gente, stanno tutti comprando queste cacchio di cosce. È un negozio apposito dove vende queste... Come si chiama? No, no, è il negozio. Non lo so. Vabbè, già chiederà di averlo viene. Comunque, mi sembra che sia in via Bria Cacciasseri. Vabbè, già lo tolgo, non è così. A me volete in Piazza Castello, io ho cercato in Piazza Castello e non l'ho trovata, se me l'avrei già presa. Comunque, qua ci sono le bombolette, le ricariche, che sono solo, praticamente c'è solo roba profumata, tiri e cose, non c'è né nicotina né niente, capito? All'inizio, vabbè, quella nicotina va bene, ma è come se fumassi, perché è la nicotina, vabbè, non fumi la catravina e non fumi la carta, però la nicotina è quello che contiene la sigaretta, lo sai, no? Però poi ci sono le ricariche che sono solo con una fragranza, tipo, cosa ti posso dire, la fragola, la menta, eccetera, eccetera, capito? Senti il sapore della menta, c'è il fumo, però non c'è nulla. Deve essere anche questa così, qua profumo di niente, sapore di niente, non la sento. Però non è puzzolente, non fa, non c'è una specie di pulsante, non tira, chi ti rende per perché c'è il pulsante? Non sente niente. Sì, un pochettino di cortina senti già, però non è inodore, capito? È un buco, sembra vapore, altro che fumo. Sì, c'era un tipo che addirittura era tipo aerosol, capito? Ti faceva bene invece di farti male, ti purificava i polmoni, ti metteva l'aerosol proprio nei polmoni e ti faceva purificare dalla catramina, dalla cosa che vi fumava. Invece, ma questo avrà avuto il coltaccio nel pieno, invece niente, non vuole fare, perché soprattutto quando sono qua in radio, sto sempre fumando, invece questo ogni tanto, ogni mezz'ora, la prendo, faccio due tirate e mi dà proprio il senso della sigaretta. Va bene, un'ultima cosa, io non ci credevo, c'è il suo astuccio, te la prendi, va bene, ma come busciata, non c'è anche questa cosa piccata, ma ce n'è un bel che la tiene appesa, ogni tanto la toglie, fa due tirate, la rimette a posto. Vabbè, sicuro ti stufi. Io dico la verità, oggi non ho fumato nemmeno una sigaretta, non le ho comprate apposta, mi hanno comprato la macchinetta per farmele anche a casa, di modo che non fumassi fuori. Prima ho cominciato a non comprarmele e comprarmi solo il tabacco, le fumavo solo a casa, adesso ho finito il tabacco e ho smesso del tutto, non le sto più toccando, manco una oggi mi ha toccato niente. Però ti confesso che un po' la tentazione c'è. Io ce ne ho le sigarette qua, ce ne ho le sigarette qua da fronte sulla scrivania, sono quelle di ieri, ce ne saranno una decina, 12, 13, non lo so. Non ho toccato per niente, ce l'ho qua da fronte, capito? Perché ho proprio il desiderio di provare questa cosa. Me la sono provata presto, stamattina ho fatto, però non... niente. Poi tu devi fare due tiratini in macchina, non puzzi la macchina, già l'hanno inventata oggi, già l'hanno inventata. Adesso lo Stato prende un bel soldi e si rifà su di noi. Ci fa pagare le tasse adesso, perché per tutti i soldi che prende le sigarette li fa pagare a noi. Io lo sono liscio, la matta che ne riguarda, lo liscio ma poi. Ma io, una grossa perdita l'ha avuta, molta gente ce l'ha, io sono andato anche al bar del quadrato, lì c'era una signora che ce l'aveva appesa, lo stesso ha preso la cesa davanti a me e la stavo seguendo come, e dice no, guardi, è una cosa favolosa, dice, non ci credevo manco io, mi ha detto. Mi ha detto, ma funziona, mi ha detto sì, è favolosa, mi ha detto. Non ci avrei creduto manco io, dice, sono già 2 mesi che ho smesso di fumare, e io ho sentito 2 alle poste, questo qua 2 pacchetti ne fumava addirittura, 2 quando non erano 3. Ha detto, e dice stava diventando una cosa ossessionante, a parte la spesa che grazie a Dio la posso affrontare, però non era quello, era il problema della salute. Allora gli ho dato un taglio, mi ho preso questa sigaretta, dice sono 4 mesi addirittura che ho smesso, 4 mesi che non sento nemmeno il bisogno. Io sento le modulazioni sotto, non so se qualcuno va lontano in macchina. No, ti sto dicendo Gianni che funziona, guarda io non ci credo, ho fatto letterale, ma perché ci sono questi soldi? Lo sai papà, la sigaretta, ti sto dicendo di iniziare a fumarla e tu vedrai le sigarette come tocchi. Beh, avevi ragione, avevi ragione, perché è proprio un vizio, cioè è una cosa, perché c'è senza fare niente, mi dici questa cosa, la sigaretta te la accendi. E invece quando ti viene, vedi quella, quella di là, è come che stai fumando, che stai accendendo una sigaretta, capito? Però ti ripeto, non è che puoi stare tutta la vita con questa cosa in bocca, no? Fai 2, 3, 4 tirate, sempre come fumi la sigaretta, poi le metti il cappuccetto e automaticamente si spegne quando metti il cappuccetto e la metti da parte. Poi l'ho caricata ieri e sono buttata lì, ti rendi. A quanto pare dura una settimana, quindi cazzo, se dura una settimana ho risparmiato 5% e 35, cioè devo mangiare. No, sto dicendo, ho risparmiato io 5 euro al giorno, per una settimana sono 5% e 35 euro alla settimana. Quanto costa la carica? 5 euro? E allora, 5 euro. Quanto ti dura? Una settimana. Allora vabbè, ma io non capisco come il funzionamento, cos'è elettrico, si ricarica questa cosa o che cosa? Tu sì, e tu gli, c'è un tappino, lo svitti, lo avvitti questo caricatore tipo come il telefonino e lo attacchi al portale, alla porta USB del computer, cioè l'attacco USB. Ah, è carica lui, ho capito, quindi vabbè, computer manca, a casa ha preso 4. Non so, è tutto da provare, perché io adesso non ne voglio più comprare la sigaretta, guarda. Solo che quando vado a pescare mi ha sorte, sempre sento il bisogno. Io quando ho smesso di fumare, c'era un anno che non fumavo più, lanciavo, andavo a prendere la sigaretta e poi mi ricordavo che non ne avevo, che non stavo più fumando. Non c'è nervoso che mi veniva, allora via a mangiarmi qualche caramella, qualche cosa per sostituire quello, ma non mi dava soddisfazione. Diciamo che poi le sigarette che tu ti fumi proprio con gusto saranno due o tre, le altre le fumi per forza di inerzia, vedi l'altro che le accende, vedremo le accendere automaticamente anche a te. E te ne accendi una dopo l'altra ma senza gustarle, come magari ti gusti quella che dopo ti fumi dopo il caffè, per dire. E non sono tutte che dei gusti di sigarette, le prendi per forza di inerzia tante. Se ti porti quella a pescare, guarda che io siamo su un lavoro in macchina, se non metto la sigaretta in bocca, in macchina, in cantiere, se sono sempre la sigaretta in bocca, capito? E ti faccio vedere che no, non la tocco io, perché quella è come una sigaretta, tu te la porti appresso, non ti chiede niente, non sporchi, non fa cenere, nulla, anche in macchina lì, mentre stai viaggiando, no? Che adesso mi fermo a fare una sigaretta, no, ti rilissa. Tiri, non ti puzza la macchina ed è come che stai fumando già, perché l'ho provato io, guarda io, anni, non ho mai smesso, ho provato a smettere ma non ci sono mai riuscito. Dico che non ci senso di toccare sigaretta, non me ne adatto, e per me questo è un grande, mi sento anche la voce della capito? E invece a quest'ora ero già rauco, con la tosse qui là, nulla, non ne ho toccato per niente. No, ma ne ho sentito tanti, infatti mi sta quasi convincendo, solo che mi sento una specie di balengo con questa cosa in bocca, che poi non è la vera sigaretta, è quasi come mi stessi prendendo in giro, vabbè comunque, questa sensazione mi dà, questa sensazione strana, ma comunque la voglio provare, questo amico mio me l'ha fatto provare un paio di tirate e ci aveva un gusto buono. Comunque come l'aria condizionata, non vedi, non senti nulla, è vero, non sporca la macchina, non ti brucia i sedili, quella cenere, quella vicina, ecco. No, è una cosa comoda, però io volevo smettere direttamente col cervello, perché io ho molta forza di volontà, la volta scorsa ho detto che smettevo, ho smesso per un anno, vabbè, poi a furia di dire con amici che fumano, ecco, te la fumo una sigaretta, mi ha dato la tentazione, una volta me ne ho fumato una e mi ha fottuto. Ah, ma anche se vuoi fumartela una sigaretta, capito? Anche se per voi fumare una sigaretta, non è come fumarti un pacchetto, intanto non ti piace poi, alla fine non ti piace, capito? Ora che non è normale, la prendi come prendi la sigaretta, capito? È normale, con due dita, normale, c'è il pulsantino, tiri, basta, la tiri in mano, normale. Poi quando ti senti che non vuoi più tirare, le metti il cappuccetto e te la buoni in busciacca. È normale, come un pacchetto di sigarette. Solo lì se non finisce mai, capito? Un pacchetto non finisce mai lì. Non sporca, inodore, è perfetta, guarda, perfetta. C'è un profumo nella stanza mia qua oggi, allucinante. Mi chiede, lo senti che lo fa una bella. Infatti non ho aperto, in tutto il giorno alla finestra ci sono 24 gradi, 5, tra poco il cupieggio. Io bene mi senti qua, perché mi è caduto il microfono in terra. Bene mi senti. Sì, era grande. Ti stavo dicendo, io sempre la facevo, fumavo con la finestra aperta quando se ne andava tutti a letto, perché io non ancora fumare dentro casa, e a volte mi accendevo il computer, andare fuori, c'era freddo, la lasciavo aperta la finestra aperta, fumavo così, e poi mi sono comprato questo deodorante alla vaniglia, mangia fumo, e lo spruzzavo, e subito allora, immediatamente. La stessa cosa, come rientrava l'aria da lavoro, papà, ma è fatto? Un odore di fumo, una puzza, ma neanche anche per voi quando venivano, magari veniva gente, capito, si sente l'odore, anche se poi apri tutto, fai. E invece, guarda, ti dico, secondo me, se continuo, che ci riesco, sono venato. In salute e in tutto, perché poi io ce l'ho tenuto bianco la finestra, ti si sporca, diventano gialle, diventa tutto giallo, e invece mi ho finito, guarda. Ma a casa, se poi una sigaretta me la voglio fumare fuori, me la posso anche fumare, oddio, ma non è mai un pacchetto. Però a casa la sigaretta non mi accendo più io, manco per le balle. Sì, a me mi stressano. Marco dice, papà fa male, fumare, non devi fumare. Liliana che fa finta che tu sia fatto. l'altra che mi dice, mamma mia che puzza di fumo, non te la fanno nemmeno godere a casa, capito, la sigaretta. Io di solito la fumo sempre fuori nel terrazzo, ma qualche volta di notte, quando non ci sono loro, di nascosto la fumo. Ma non... è una cosa che nelle tende poi si impregna, perché ti fa da filtro la tenda, ti si impregna proprio l'odore e te lo lascia stantio, come quando tu vai il giorno dopo in una discoteca, è una cosa tremenda, quando si fumava era una cosa tremenda, io a volte andavo a consegnare delle discoteche, bibite, roba del genere, andavo il giorno dopo che c'era stata la serata, non si poteva stare dall'odore. No, è schifoso. Il valore della sigaretta è schifoso. È schifoso per l'alito, per tutto ciò, ma anche addosso, ti si impegna addosso. Nella macchina non ho mai fumato. Fumo quella da lavoro, ma filettino aperto tranquillamente. Adesso anche lì non ci metto a fare. Guarda, io ogni tanto la trovo il cappuccetto, come una virata. Perfetto, occhio alla gamba, poi metti il cappuccetto e si spegne. È una benna, pare una benna, veramente ad hoc. Non hanno ragione, a casa non fa. Io non fumavo mai a casa, poi perché? Perché non avevo la mia stanza. Poi quando c'è la stanza, qua chiudo la porta, apro la finestra. Però come apri la porta, Marasucchi, l'odore del fumo si sente fuori, non c'è niente da fare, passa sotto la porta, nonostante la finestra aperta, è un casino. Io se continuo così, guarda, sono andato troppo di lusso, non ci credevo, ci sto credendo, perché mai dire mai, ci sto credendo, se va bene, sono paziente. Per il momento oggi non ho toccato manco una sigaretta. Domani che vado fuori sarà la stessa cosa e sono già due giorni. Se mi abituo tu vedrai, manco ne compro più. E ce li ho qua davanti le sigarette. Ciao Giampi, è riuscito, ci sono. L'altro giorno mi ha fatto male la sigaretta, mi stava facendo svenire, mi ha fatto vedere il capogiro allucinato. Sì, ciao Giampa. Sì, perché secondo come ti trovi, sei un po' stanco, fressato, magari hai mangiato poco, ti si abbassa la pressione per il russo. No. A me me l'ha fatto qualche volta d'estate, io pensavo fosse il caldo, un giro, in macchina, lo stesso, invece che il fumetto di sigaretta. Allora, ti sto dicendo già, mai dire mai, perché io ho 52 anni, non ho mai smesso di fumare dall'età di 14 anni, ok? Ci sto riuscendo piano piano con questo sistema e se ci riesco ti dico che ingrasserò forse di più. Però se ci riesco così, che mi aiuto con questa, piano piano, tirando, eccetera, eccetera, per me va bene. Beh, è sempre una spesa e poi se si riesce a mollarla del tutto è ancora meglio, perché non ti paghi manco le cariche per quella macchinetta lì. Però all'inizio magari per darti un aiuto va anche bene, poi si può anche mollare del tutto. Io ho smesso due volte e non ho mai usato né sigarette finte, elettroniche né nulla. Ho detto basta e basta è stato. Una volta ho smesso e sono stato 5 anni, poi ho ripreso, ho smesso un'altra volta per un anno, sempre così senza sigarette, senza nulla, e ci sono riuscito per un anno intero. Poi basta che tu frequenti gente magari che fuma, roba del genere, ti metti di bere la cana e torni a cascarci. È vero, è brutto, sentirlo agli altri poi, specialmente quando tu smetti di fumare, lo senti ancora di più. E sentirlo addosso agli altri ti rendi conto di come eri tu quando fumavi, capito? No, è una cosa brutta, è un vizio brutto, è un vizio che poi se ci pensi non ha senso, tiri fumo, lo butti fuori, ma che senso ha? Poi è una cosa proprio insensata che fai, se ci pensi bene è così. Un attimino che mi cambia. No, Giampa, ma è una forza proprio di volontà, capito? L'ho lasciato apposta il pacchetto per vedere se difficile, e quindi vedendo questa cosa che ci sono riuscito in tutto il giorno, aiutandomi con questa elettronica, alla fine dico, ma quindi è una cosa, è un vizio che si può tranquillamente eliminare, ecco, tutto qui. Diversamente avrei fatto un'altra cosa, capito? No, non ho giocato per niente, domani che sono fuori, adesso stanotte la metto a caricare, domani sono tutta la mattina fuori, presidente la sua casa, mi porto quell'elettronica e uso quella, quindi per me è già un grande, grande miracolo riuscire a fare una cosa del genere, Gianpa, perché io ero uno di quelli che, accorgendomi di non farcela con le sigarette, prima di fare serata tarda, uscivo nuovamente, nonostante io sia, da quando sono qua, un grande casalingo, perché come arrivo gli amici abbatti non mi muovo più, manco gli mammatti, eppure mi cambiavo, uscivo, andavo a prendere le sigarette. Adesso non me ne sbatte proprio manco per le balle. Tu ne ama l'aria, nessuno fuma qua. Me l'avevo messa a scaldare sul termosifone. Ok, se me sono male che corti. Sono venuto a chiamare che corti, mi sono finito di cucare, non va bene, però provo a fare un po'. Magari adesso perché non ci si è abituato a stare con le finestre aperte, a passare l'aria. No, ma non ho freddo, c'è un bel caldo. Un po' con la giacchina anch'io, e sono male che corti. Non sono mai che cotte, però va bene. Giampa! Sono meglio? Sì, sì, sì. Va bene così, già si capisce. Solo che sono io che magari c'è un po' di casino a casa, stavo parlando, facendo, quindi non è che si capisca tante volte. Adesso invece sei troppo forte, sei troppo forte, o se hai parlato troppo vicino al microfono, o tendevi a strappare. Troppo forte, ma quando adesso va bene, no, adesso riusco. E tu già fa quanti anni hai smesso di fumare? Sento la mancanza, anche quando sei con amici che fumano, niente. Intanto il fumo passivo è peggio di quello attivo. Claudio. Sì, ci siamo attenti già un po' che c'è la radio, ma sempre come te l'ho messo io ce l'hai. A 4, tienilo così, una radio micidiale, va bene quella, quanto vuoi 100, poi passivo fa male, quello che lo so. sigaretta in bocca. E non la partire la sigaretta, non fumare in macchina, mi ci ammazzendo io, eppure io fumatore. Non la fastidio, capito? Non la fastidio. C'era un periodo quando ci avevamo inciso lì a Latte Dolce, che eravamo tutti in una stanza che fumavamo, il vero nuvolone, se lo sai il fumo che abbiamo respirato tutti, per carità. Tutto un pieno di fumo, ti bruciava le burucce. No, così non va bene. Non va assolutamente bene, bisogna avere rispetto anche per gli altri, perché se uno fuma, io non le fumo davanti. Ad esempio qua quando c'è il mio genero io non fumo. Non ho mai acceso sigaretta perché dura fastidio e quindi io non accendo. Come andavo fuori venivo qua nella mia stanza, capito? Quindi ho fatto proprio lui a dirle a mia figlia, prova che pare può fare questa cosa, vedrai che non permette di fumare. Ma vabbè. Ci proviamo comunque, dai, non è detta l'ultima parola, non si sa mai il destino com'è, la situazione. Una volta in vita ci troviamo a fumare, ma c'è un piccolo problema di farlo con riprendere. Cos'è il lavoro, che cosa è? sembra che ti allevi i problemi, anche se non è così, ma sembra così. E così è, non c'è da fare, comunque se ci riusciamo ben venga, perché fa troppo male, la fifina non serve assolutamente a niente. Va bene così, e ciccia, non deve fare, comunque. Allora io posso venire adesso perché c'è la sigaretta elettronica, quindi posso passare da te a trovarti e fumare, così è. ogni anno rischi sempre fra e tira e molla, io non sono in compagnia, non sto lì a farmi pregare, mangio, bevo, mi diverto. E allora quest'anno a casa con 25 ore posso anche uscire, però 24 sono a casa e niente, mi ha fatto niente. Sto a casa, al cabuccio, a San Bassano, che vanno da casa lì, ora dico che era un freddo, ha dovuto maniaca, che lo guardate con i guanti. Vabbè, cioè è bello, là, sta compagnia, ma noi non ce ne scendiamo nella villa del cuscino della mia moglie, siamo tutti in gran famiglia. E quindi se stiamo in compagnia. Poi bisogna vedere se non è preso come quell'anno che mi ha dato questo video, mi sono contrumito. No, ormai ma è sempre la stessa cosa, che da me sempre lì, a Porto, a casa di tutti, e qui e là. Prima si andava l'albero, adesso che non ci voleva andare più nessuno, perché lontano, con la storia della patente, qui e là, capito? No, ci tu fai una cosa, a me non mi dice che. Io quest'anno sono a casa e non sto a casa a Carduccio. Non vi credete Giampaolo, un freddo anche in casa, ma freddo, cazzo, mi stavo ballando. L'ho sempre fatta in mano, manco bevendo riuscivo a scaldarmi. Qua quando vengono, mamma mia, mi caldo, paga, ma che corti, che tu devi le mani ai maglioni. Mettiti, ma che corte, come sto io, e sei tranquillo e sereno, capito? Io, se non sto bene, no, non riesco ad adattarmi, comunque, quest'anno è così, poi a Capodanno saremo sicuramente fuori, però Natale ho deciso di starmene a casa a riposarmi. E beh, poi se lavoro il giorno dopo, giusto sia così, se c'è quella paranoia di donna travaglia, magari c'è mezzo cotto. Ciao Giampa, buonanotte, ci sentiamo. Buona carica. Class, ti saluto anch'io, dai, che vado a mangiare anch'io. Ci sentiamo magari più tardi se coincide. Dai, ciao ciao. Ciao Gian, grazie per le chiacchiere. Ciao Giampa, alle prossime, saluto anche tutti quelli che sono in ascolto. Ci sentiamo, ciao a tutti, buona cena.